Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo. Fabrizio De André, l'indimenticabile poeta genovese, canta storie di ribelli ed emarginati. Parla durante un suo concerto del 1998 di una delle etnie sicuramente più controverse che esistano, che forse più di ogni altra divide le opinioni, il cui stesso nome è spesso sinonimo di delinquenza, furto, inganno, gli zingari. Zigani, gitani, nomadi, i nomi sono tanti. Moltissime le etnie, Rom, Sinti, Calais, Romanicals. Questo popolo, poco conosciuto ma molto giudicato, è probabilmente originario di una regione a cavallo tra India e Pakistan, e intorno all'anno 1000 inizia un gigantesco esodo per sfuggire alle invasioni armene. Le direzioni che prendono gli zingari sono molteplici. Si spingono fino in Spagna, Inghilterra, Germania, arrivano nei freddi paesi del nord, ma principalmente si concentrano nell'Europa centrale e nei paesi balcanici. La loro presenza si consolida in tutto il mondo, pur passando attraverso persecuzioni di ogni genere. Arresti di massa in Spagna, schiavitù in Romania, campi di concentramento nazisti, xenofobia ancora oggi presente un po' dovunque, anche nel nostro paese. Una forma di razzismo che non abbraccia però l'etnia gitana nella sua totalità. Basti pensare, ad esempio, a quanto sia amato in tutto il mondo il flamenco. Molto più di un semplice ballo, un vero genere musicale e una vera e propria rappresentazione teatrale, il flamenco tramanda da secoli le tradizioni del popolo dei gitani. Tradizioni orali e non scritte, attraverso un veicolo culturale che prescinde dalla parola e diventa universale. Nei loro incessanti spostamenti, i gitani trovano in Spagna, in particolare in Andalusia, le condizioni più adatte alla loro integrazione, tanto che spesso a torto si considera il flamenco un ballo spagnolo, mentre è l'espressione artistica per eccellenza degli zingari. Che la musica contenga le radici di un popolo e permetta di imparare a conoscerlo e ad amarlo in maniera fluida e naturale è il pensiero profondo di molti. Ma c'è un uomo che ha fatto di questo pensiero il suo credo e adesso ha dedicato la sua vita. Un uomo che ha tra l'altro un bellissimo rapporto con il nostro paese. Nei prossimi anni non aspettiamo molto che Europa riconosca il danno della cultura gitana alla cultura europea. No, non è poco, che sono grandi tracce nella cultura europea e della cultura gitana. L'Italia era visto sempre, penso che è difficile trovare un gitano da noi che non parla qualche parola italiana, è proprio un paese preferito, perché l'Italia aveva sempre cuore per il poveri, perché penso perché l'Italia ha esperienza con i suoi periodi di poverezza e di ricchezza e capisce i poveri. Allora penso che questo è un momento io non posso immaginare Italia che niente altro che un paese, quando dico Italia mi fa un sorriso, e penso non c'è nessun altro paese nel mondo che ti fa sorriso subito, c'è Italia. L'uomo che abbiamo appena ascoltato parla piuttosto bene la nostra lingua, nonostante sia bosniaco, nato a Sarajevo. In effetti lo si potrebbe tranquillamente definire un cittadino del mondo, visto che si sposta in continuazione, mantenendo in qualche maniera la tradizione di quel popolo nomade dei Balcani dal quale egli stesso discende. E si sposta per un motivo ben preciso: far conoscere la sua etnia attraverso il linguaggio più universale che esista, la musica. Ma io veramente credo in questo fatto che la musica è il primo linguaggio umano. È un fatto scientifico, però io sono uno che vive con la musica. Sono fortunato molto di più di un politico o di un prete o di un, perché con la musica è possibile veramente fare cose che sono impossibili a nessun altro mondo, solamente perché la musica è il primo linguaggio umano, che era lì primo che noi abbiamo imparato di parlare, e primo di religione e politica. Allora io credo, se parlo bene questo linguaggio che si chiama la musica, frontiere non ci sono. Se parlo bene in Berlino è lo stesso come a Tel Aviv o non so, a alcun altro posto. Una dichiarazione meravigliosa: frontiere non ce ne sono. Ben lo sa il protagonista della nostra puntata dei Magnifici Destini di oggi, che di frontiere ne ha passate parecchie in tanti anni di carriera. Oggi vi raccontiamo la sua storia, quella di un musicista che con la sua arte valica ogni confine, sia geografico, sia di razza, sia di stile musicale. Il suo nome è Goran Bregovic. La musica di Goran Bregovic è una miscela che si forma nelle misteriose terre balcaniche di frontiera, crocevia di tre culture e religioni diversissime tra di loro, ortodossa, cattolica e musulmana. Le sue composizioni sono un mix di folk e tecnologia, uniscono ritmi sfrenati a temi sacri, difficilmente riconducibili ad un unico genere musicale, ma che sicuramente affondano le proprie radici nella più profonda storia dei popoli nomadi. Radici che questo musicista gitano cosmopolita, lo si potrebbe definire, cerca costantemente di fare riaffiorare, certo del potere taumaturgico della musica, forse l'unica in grado di cancellare gli stereotipi che affliggono la sua etnia. La gente che viaggia lo sa che mai non vedrà nessuno che corrisponde con il stereotipo. Io mi ricordo, non so, noi siamo, diciamo, cresciuti con i forti stereotipi dei tedeschi e dei turchi. Io non ho mai visto nessun tedesco o nessun turco che corrisponde al stereotipo con quale io ho cresciuto. Io non... Allora... La gente che non esce dal suo giardino può credere nel stereotipi, però per fortuna il mondo non è come sempre in TV. Se parliamo di gente che è uscita dal suo giardino, tanto per restare nella metafora di Bregovic, lui è uno che il suo giardino lo ha valicato ampiamente. È insito nel suo DNA l'essere al di fuori di qualsiasi catalogazione geografica, etnica, linguistica. E il fatto di occuparsi di musica, l'arte universale per eccellenza, non fa che accentuare e moltiplicare il suo essere a tutti gli effetti un cittadino cosmopolita. Legato alle sue origini, ma con il mondo in tasca. Tradizionalista e sperimentatore al tempo stesso. Profondo e divertente insieme. Bregovic sembra racchiudere in sé tutte le caratteristiche del gitano. Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, città magica, crogiolo di etnie e religioni. Luoghi di culto cristiano, islamico ed ebraico convivono pacificamente a pochi metri di distanza. E il clima di grande tolleranza fa sì che la città venga soprannominata la Gerusalemme d'Europa. Quando Goran Bregovic nasce, nel 1950, la situazione appare sotto controllo. La Jugoslavia è una nazione unita. Croazia, Serbia, Slovenia, Montenegro, Macedonia e Bosnia e Erzegovina sono gestite dal governo totalitario del maresciallo Josip Broz, meglio noto con il nome di battaglia di Tito, che subito dopo il termine del conflitto mondiale costituisce la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Una dittatura monopartitica che guiderà fino alla sua morte nel 1980. Un incredibile intreccio di religioni, etnie, discendenze, che si respira in ogni vicolo, in ogni angolo di questa città dove il giovane Goran Bregovic diventa un adolescente innamorato della musica e dove ha un solo, grande, immenso, impossibile sogno: farsi crescere i capelli lunghi. E in questi tempi il rock and roll era molto più importante da noi che nel mondo occidente, perché e artisti in generale erano molto importanti, perché loro erano gli unici che portavano un sistema di valore un po' diverso di ufficiale. Non credo che l'importanza di rock and roll dei paesi comunistici era molto in musica, però una importanza sociale sono sicuro che era. Goran Bregovic sogna il rock, desidera ardentemente le chiome fluenti dei suoi miti, Jimmy Page dei Led Zeppelin, Ozzy Osbourne dei Black Sabbath, ma non può. I suoi genitori sono molto severi. Suo padre, poi, è un colonnello dell'Armata Popolare Jugoslavia, figuriamoci. Goran sta dicendo loro che vuole fare il musicista. Ok, gli rispondono, va bene, però devi studiare. Inizia con il violino, ma il maestro sentenzia che non ha talento. Così passa alla chitarra, che gli regala sua madre. Intanto vorrebbe studiare arte all'Accademia di Sarajevo, ma rinuncia per via dello zio, che liquida la scuola come covo di omosessuali. Goran è testardo, una testa calda. Il suo obiettivo è vivere facendo solo quello che gli piace. Nutre una repulsione per tutto ciò che è imposizione dall'alto. Sa perfettamente quello che vuole. Accetta di iscriversi a un virile istituto tecnico in cambio della promessa di sua madre di poter tenere i capelli lunghi, che non sono solo un capriccio, ma un simbolo identificativo importante della gioventù rock di quegli anni, nonché una forma di ribellione a quel clima difficile e repressivo portato dal regime comunista del maresciallo Tito. Siamo verso la fine degli anni 60, a Sarajevo. Goran Bregovic è inquieto, scalpita. E ha quel pizzico di pazzia che spesso fa rima con genialità. Provoca un incidente con l'auto dell'istituto tecnico e viene cacciato dalla scuola. Ripiega su un liceo cittadino. Ed è qui che conosce alcuni ragazzi che hanno formato una rock band, Le Bestie. È fortunato, hanno bisogno di un basso. E Goran entra a far parte del gruppo. È felicissimo. Finalmente può fare quello che vuole, suonare. Ed è proprio durante una serata in cui suona con Le Bestie che qualcuno lo sta osservando. È un ragazzo poco più giovane di lui che canta e suona in una band un po' meglio organizzata di loro. Si chiamano i Codexi, i Codici. Il suo nome è Sheiko Bebec. Sheiko sta ascoltando Goran. È forte quel ragazzo, proprio forte. E la sua band ha bisogno di gente così. Per questo alla fine della sua performance gli si avvicina e senza grandi giri di parole gli propone di entrare a far parte della sua band. Sheiko Bebec è sicuramente un incontro magico per Goran Bregovic, il primo magnifico destino della sua vita. E grazie a lui se il giovane passa da una realtà di dilettanti a una formazione professionale che lo porta addirittura in tournée in Italia, a Napoli. Ma intanto si iscrive anche all'università, a filosofia. Per educazione io devo essere il professore di marxismo, perché in questi tempi io studiavo filosofia. E il titolo ufficiale quando finisci la filosofia era il professore di marxismo. Allora io mi sono salvato di questo destino perché sono diventato il star di rock and roll. Allora non lavoravo mai come professore di marxismo. Gli indottrinamenti non fanno per lui. Goran capisce molto presto che gli studi che ha intrapreso non possono che portarlo a una totale mancanza di libertà di pensiero. Peccato. Perché la filosofia gli piace, è l'unica altra materia che lo affascina insieme alla musica. Ma non è cosa in un paese totalitario come la Jugoslavia, meglio dedicarsi definitivamente alla musica. È così che insieme all'amico Sheiko Goran si impegna totalmente e dopo una breve parentesi in cui il gruppo cambia nome in Jutro, cioè Mattina, la formazione trova la sua giusta dimensione. 5 componenti e un nome che fa subito parlare di sé. Bielo Dugme, Bottone Bianco. come mala vi se s'accocciala me. Il mio gruppo era un gruppo tipico provinciale rock and roll. Voi avete, penso, lo stesso, come Corea, come Island, come, non so, Bulgaria, il rock and roll provinciale. Un gruppo rock and roll provinciale, lo definisce Goran Bregovic. Indubbiamente, anche per un'ovvia problematica di lingua, le canzoni di Bielo Dugme hanno immediatamente successo in patria, ma non escono dai ristretti confini jugoslavi. Bisogna però dire che in patria hanno un successo a dir poco stellare. Il loro è un genere molto particolare. Influenzati dai pionieri dell'hard rock, i Led Zeppelin e i Black Sabbath, che Goran Bregovic tanto ama e del cui leader copia la folta chioma, combinano elementi blues e musica folk dei Balcani. Il tutto condito in salsa rock. Il mix è qualcosa di straordinariamente nuovo, ricco di contaminazioni che lo rendono piacevole sia per i giovani che per i più grandi. In men che non si dica, Goran Bregovic, Sheiko Bebek e i loro amici diventano il gruppo rock più famoso della Jugoslavia. È il 22 agosto 1977. Nel parco Konjunak di Belgrado si sta svolgendo forse il più grande happening musicale mai organizzato in Jugoslavia. Goran Bregovic è sul palco con Sheiko Bebek. Davanti a loro una folla immensa, c'è chi parla addirittura di 100.000 persone. Un'emozione impossibile da spiegare per i due amici. Sono accorsi in tanti per questo evento unico, per vedere dal vivo i loro beniamini. Spesso ci si riferisce a Bielo Dugme come ai Beatles o ai Rolling Stones dei Balcani, ma non è detto che questo paragone sia poi tanto calzante per far capire cosa questo gruppo significhi per la Jugoslavia. Nella loro storia venderanno oltre 6 milioni di dischi in un paese che non raggiunge i 20 milioni di abitanti. Goran Bregovic se lo domanda spesso il perché di tanto successo. Forse perché nascono proprio nel cuore del paese, la Bosnia ed Erzegovina, e in qualche maniera riescono a rappresentare l'unità spirituale della nazione. Sono la prova vivente che esiste un comune spazio culturale, al di là delle differenze etniche, linguistiche, religiose, storiche. Un'unità che è però purtroppo destinata ad essere spazzata via molto presto, dai terribili venti della guerra civile e dei conflitti secessionisti. Balcan, Balcan, Balcan e Balcanieros, vamos! Destini. Io ero grande star, forse il più grande star di lì, che già nel primo della guerra avevo basta e ho comprato una casa in una isola e volevo andare in ritretto, però la guerra è cominciata e io mi sono trovato a Parigi nell'inizio della guerra e dovevo sopravvivere, allora dovevo ricominciare a lavorare, e per questo che sono stasera qui. Se no, senza la guerra io sarò un tipico ritretto star di rock and roll, pescavo nell'una isola al mare Adriatico. Lo avete sentito? Parla piuttosto bene l'italiano il nostro protagonista di oggi, benché sia bosniaco di Sarajevo. I Magnifici Destini vuole farvi incontrare le sonorità delle musiche folk dei Balcani, le fanfare sfrenate che mettono allegria, ma anche le melodie gitane che conquistano i cuori e fanno innamorare. Tutto questo attraverso la musica del più famoso interprete del genere, lo stravagante e appassionante Goran Bregovic. Nato e cresciuto a Sarajevo, Goran Bregovic respira l'atmosfera magica di una città incredibile, crocevia di religioni e culture diverse. Una città che lo vede muovere i primi passi nel mondo della musica, fino a diventare una vera e propria rockstar accanto all'amico e collega Sheiko Bebek, con il quale fonda il gruppo dei Bielo Dugme, Bottone Bianco. La band ha un successo enorme. Viene definita i Beatles o i Rolling Stones della Jugoslavia. E anche se la loro fama non varca mai i confini del paese, c'è davvero di che essere soddisfatti per i Bielo Dugme, che arrivano a vendere oltre 6 milioni di dischi in una quindicina di anni di carriera. Poi, come ricordava in apertura Goran Bregovic, le cose cambiano. Dopo la morte del dittatore Tito, l'unità del paese vacilla e le varie fazioni ed etnie iniziano un braccio di ferro tra loro che sfocia in una delle guerre più cruente dell'era moderna. I Bielo Dugme in parte si sono già divisi quando scoppiano le prime offensive e Goran Bregovic si trova a Parigi. Il motivo di questa sua presenza nella capitale francese è legato a un altro magnifico destino che incrocia la sua esistenza. Tutto quello che succede nel mio cinema è lo sforzo di mettere insieme ingredienti improbabili. Se si guardano i miei film, c'è una combinazione di burlesco e serio. La mia ossessione è mettere insieme Bruce Lee e Ingmar Bergman, ma non in maniera diretta, eh? Mischiare i generi per cercare un genere nuovo. Parla in inglese ma è bosniaco, di Sarajevo, esattamente come il nostro protagonista Goran Bregovic, l'uomo che abbiamo appena ascoltato. È un regista particolarissimo, un artista che dedica la sua vita a raccontare storie difficili. Il suo nome è Emir Kusturica. Immerso nelle tensioni e negli obblighi imposti dalla dittatura del maresciallo Tito, Kusturica si sente soffocare. Ha la sensazione di essere un animale in gabbia. È istintivamente attratto dalle persone che non riescono a integrarsi, dalla gente che resta ai margini. Con le sue inquadrature vuole raccontare storie di popolazioni balcaniche, zingare, dell'est. Di quelle comunità ancestrali che tradizionalmente sopravvivono facendo i maghi, i lavoratori di metalli, gli addestratori di cavalli, i giostrai. E quando decide di realizzare un film su di loro, gli viene in mente un solo musicista in grado di realizzare la colonna sonora che desidera lui. Il tempo dei gitani racconta la storia di un giovane zingaro, Peran, che si ritrova nelle mani di un gruppo di trafficanti di esseri umani nella Jugoslavia di Tito. Kusturica prende spunto da un fatto realmente accaduto. La storia di due genitori gitani che vendono il proprio bambino lo sconvolge a tal punto da far nascere in lui il desiderio di denunciare situazioni al limite dell'immaginabile. È in questa occasione che Kusturica entra per la prima volta in contatto con Goran Bregovic e diventa il suo tramite per la conquista della fama internazionale. I due giovani hanno lo stesso spirito, credono fermamente nelle proprie radici, ma hanno lo sguardo rivolto al nuovo. Quando Bregovic incontra Kusturica, che gli propone di scrivere la colonna sonora del suo film, lui è una rockstar acclamata, forse il cantante più famoso di tutta la Jugoslavia. La Jugoslavia, appunto. Proprio quello a cui sta pensando Goran, una nazione che sta per collassare ed è in procinto di dissolversi. Forse anche per lui è venuto il momento di cambiare. Ecco perché accetta di mettersi alla prova in qualcosa di diverso, che poi tanto diverso non è, almeno a sentire lui. Però come metodo di componere era sempre lo stesso, solo quando ero giovane la mia musica erano in un abito diverso che si chiamava rock and roll, e oggi non c'è questo abito, non c'è bisogno. Però il metodo era sempre lo stesso, come il metodo di... penso di tutti i compositori nella storia, di Stravinsky a Mozart, da McCartney, Bono, sempre tu vai, parti della tua tradizione, rubi e cerchi di lasciare dietro di te qualcosa per rubare per quelle che vengono dopo di te. È un lavoro di Robin Hood che penso che tutti artisti lo fanno. Vincitore del premio per la miglior regia al 42esimo Festival di Cannes dell'89, Il tempo dei gitani è il film che segna l'inizio della collaborazione di Goran Bregovic con Emir Kusturica, che rappresenta il secondo magnifico destino nella sua vita e nella sua carriera. Ma soprattutto segna per lui il momento di passaggio da una fama strettamente locale, confinata all'interno della Jugoslavia, verso un riconoscimento destinato a trasformarsi molto presto in un successo internazionale. Allo scoppio del sanguinoso conflitto jugoslavo, i due amici si trovano a Parigi. Stanno già pensando alla realizzazione di una nuova pellicola e la loro guerra li coglie così, lontani dalla propria patria. E in quanto esiliati, forse il loro sguardo sulla propria nazione e sulle sue genti si fa più profondo, più accurato. Però da asilo, come tutti gli altri asilanti artisti, specialmente asilanti delle piccole culture come la mia, ho preso un po' la distanza e poi da questa distanza ho preso un po' di più di confidenza su questa piccola cultura, perché non è facile se vieni da grande cultura come la vostra, come non so, russa, cinese, anglosassone, è facile, però dalla mia piccola, piccolissima cultura non è facile. Allora io ho approfittato malaurosamente di questa guerra da noi, senza questa guerra non partirò mai dal mio paese. Prendere le distanze e guardare la realtà da un'angolazione differente. Ecco quello che sta facendo Goran Bregovic. Anche perché il compito che viene chiamato a svolgere non è dei più semplici. Emir Kusturica gli propone un sogno, per l'esattezza Arizona Dream. This film represents sincere... Questo film rappresenta la parte più sincera di me. Sicuramente non la più bella parte della mia vita, ma non è certo un film realizzato secondo i canoni hollywoodiani, ma è estremamente personale. E forse è per questo che piace alla gente. That's why probably people again go and see it. Emir scrive una storia particolarissima. Arizona Dream è una meravigliosa metafora del male di vivere che si può sopportare solo attraverso il sogno. I suoi personaggi non vogliono diventare adulti perché questo comporta troppa sofferenza e responsabilità e si rifugiano ciascuno in un sogno diverso. Axel, interpretato da un giovane Johnny Depp, decide di inseguire il sogno di Elaine, l'affascinante Faye Dunaway, che vuole volare, mentre suo zio Jerry Lewis vuole raggiungere la luna accatastando una sull'altra una serie infinita di Cadillac, mentre la giovane Grace vuole reincarnarsi in una tartaruga. Arizona Dream, che in italiano si intitola Il valzer del pesce freccia, vince l'Orso d'Argento, gran premio della giuria al 43esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 1993, riconfermando l'incredibile estro di Emir Kusturica e la superba rinascita della sua collaborazione con Goran Bregovic, che firma tutte le musiche della colonna sonora e una serie di meravigliose canzoni interpretate dal mitico Iggy Pop. Il successo di Arizona Dream è straordinario, e in particolare lo è quello della colonna sonora. Goran Bregovic non è più una rockstar ristretta e provinciale, come si definiva lui nel suo particolarissimo italiano. Ora è riconosciuto come un grandissimo compositore internazionale. Ma quello che più di ogni altra cosa lo rende orgoglioso è l'idea di poter raccontare la storia della propria etnia attraverso la musica e le sue sonorità inconfondibili. Solo pochi mesi dopo, Emir e Goran sono di nuovo al lavoro insieme. La loro collaborazione è destinata a dare ancora nuovi frutti. Allora, questo è un po' destino degli compositori dei film. Tu puoi fare le più belle musiche nel mondo per un film che non è buono, è proprio un cadavere morto che nessuno sveglia più. È un po' come credere se prendi una buona banda per funerale che fa alzare il cadavere. Non fa, è morto, morto. Allora io avevo fortuna di fare qualche film di Kusturica, qualche film francese. Allora posso mettere nella mia biografia qualche film che non mi vergogno davanti ai bambini un giorno. Underground del 1995 segna la terza felicissima collaborazione tra Goran Bregovic ed Emir Kusturica. Ambientato tra la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Civile, il film è un meraviglioso affresco della storia della nazione e del popolo jugoslavo e vince addirittura la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Un altro grandioso successo per le fanfare gitane del cantore zingaro Bregovic. Thank you. nostri magnifici destini. Da noi non, da sempre era musica solamente un accompagnamento per bere. Noi non abbiamo opera, non abbiamo musica classica. Al tempo quando voi avete Monteverdi, con la prima opera noi avevamo un strumento con una corda che si chiama gusle. Allora io lascio adesso nella tradizione delle musiche per bere quasi naturalmente. Allora c'è una piccola storia che un po' spiega la mia relazione con l'alcol, che l'alcol è come le altre cose, che anche se non utilizzi bene pizza ti fa male. Musica per bere, per ballare, per divertirsi. Ecco il senso delle composizioni spesso sfrenate di folk balcanico del nostro protagonista di oggi, il musicista bosniaco Goran Bregovic. Un personaggio molto particolare, un artista sopra le righe che porta in giro per il mondo la sua cultura gitana e fa conoscere al suo pubblico un'altra faccia della sua etnia poco nota e molto mal giudicata. Famosa rockstar jugoslava a cavallo fra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 80 e poi acclamato compositore di colonne sonore di grandissimo livello per i magnifici film del connazionale Emir Kusturica, Goran Bregovic è forse l'unico rappresentante della musica gitana che conosca una notorietà internazionale. Le sue composizioni sono ricche di contaminazioni che vanno dalla musica polifonica al folk tradizionale, passando per il rock, e fanno uso di strumenti generalmente impiegati dalle bande di paese, come gli ottoni. Il risultato è qualcosa di assolutamente nuovo, ma tradizionale, di sicuro personalissimo. Per meglio riprodurre quella certa atmosfera che si può respirare nelle sagre di paese, nelle feste e nei matrimoni popolari, Goran Bregovic crea nel 1995 una sua formazione che ha un nome già di per sé esplicativo, la Weddings and Funerals Orchestra. Ma io, il nome della mia banda, io ho cominciato a chiamare così per scherzo, perché loro, prima di che ci siano cominciati a suonare con me, suonavano come tutti gli altri, matrimoni e funerali. Perché da noi è lo stesso, i musicisti sono, se ci sono specialisti per matrimoni, sono specialisti per i funerali lo stesso. E poi mi è piaciuto il nome. Ma non suoniamo ovviamente matrimoni e funerali, specialmente non abbiamo suonati insieme mai, però se esce un bisogno possiamo fare abbastanza bene. Alla professione di musicista live con la sua meravigliosa orchestra di ben 40 elementi, Goran Bregovic continua ad alternare quella di compositore cinematografico. Ed è proprio nel nostro paese, il paese del sorriso, come lo chiama lui, che realizza un progetto veramente speciale. Perché non facciamo un altro bambino? Mario! Mario! Senti, non puoi lasciarmi qui a soffrire, mentre sei solo tu a sapere quello che succede. Dimmi almeno dove possiamo trovarti. Come facciamo se abbiamo bisogno di te? Non credere che per me sia facile. Io sento un vuoto di senso. Chiedili come si chiama e quanti anni ha. Come si chiama chi? Il vuoto di senso. Io è come se stessi precipitando. Ma come tu mi stai distruggendo, io devo fare la brava moglie educata? Ma vaffanculo, eh? I giorni dell'abbandono è un toccante film del 2005 di Roberto Faenza con Margherita Bui e Luca Zingaretti, che narra la discesa agli inferi di una donna abbandonata dal marito per una ragazza più giovane. La pellicola, riconosciuta film di interesse nazionale dalla Direzione Generale per il Cinema del Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali, ha un terzo interprete prestigioso, il nostro Goran Bregovic, nel ruolo di un musicista straniero, Daniel, che vive nello stesso palazzo della protagonista. Goran questa volta non si limita a comporre la colonna sonora, ma vi recita una parte molto intensa, tra l'altro parlando in italiano senza doppiatore. Certo, lui non lo parla alla perfezione, ma in fondo deve interpretare più o meno se stesso e quindi alla fine accetta entusiasta. Anche perché questo progetto segna la sua collaborazione con una delle nostre cantanti più raffinate e particolari che lui ammira moltissimo, Carmen Consoli. Regnerà sovrano l'oblio, prezioso rimedio all'impotenza e alla crudeltà di un ignobile addio, inflitto a sorpresa. Goran Bregovic non se la prende di certo, ma un dato di fatto è che le sue composizioni vengono a volte avvicinate a paesi che magari hanno poco a che vedere con la Bosnia e con le culture gitane. È il caso del film comico Borat, studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. Як же маєш? Ім'я нам Борат. Questo è mio paese di Kazakistan. E velo velo. Mio hobby. Bom, ping, ping, pom. Disca dance. Bagno con sole, con guardaroba verde. Questa è casa di me. Entrate, prego. Io vivo qui dentro. Mio letto. Questo è registra voce, con video. E questo è suona cassatina. Ora io mostro a voi fuori di mia casa. Dice, e San Natalia. Nella colonna sonora di Borat compaiono musiche di ogni genere e perfino un finto inno nazionale. Per identificare le sonorità del paese del protagonista, appunto il Kazakistan, vengono utilizzate alcune canzoni di Goran Bregovic. A riprova del fatto che le sue sono considerate composizioni che valicano i confini ristretti della sua area di appartenenza e identificano invece un'etnia più ampia. Goran Bregovic non si ferma, pensa sempre al prossimo disco, alla collaborazione successiva, a un nuovo e anticonvenzionale sistema per veicolare la musica gitana oltre i confini della propria terra. Le sue scorribande nel nostro paese sono molto note, come ad esempio il duetto con Adriano Celentano, con il quale intona 24.000 baci, la canzone più famosa in Jugoslavia per decenni, o la sua partecipazione al Festival di Sanremo l'anno scorso, in coppia con Samuele Bersani, cantando Romagna mia. Tra una bevuta e l'altra di rakia, la bevanda nazionale bosniaca che non manca mai sul palco dei suoi concerti, Goran si concede anche collaborazioni colte. Tra le più toccanti, quella con la straordinaria cantante popolare di Capoverde, Cesaria Evora, voce di una etnia poco conosciuta, proprio come quella gitana, che Goran Bregovic porta in giro per il mondo perché tutti possano apprezzarla. Se asa um tivesse para voar nessa distância, se um gazelo fosse para correr sem nem canseira.